torniamo in diretta, sono le 7:47 minuti, temporali sul nord, così siamo tutti contenti, Beh, insomma, questa sera dovrebbe ripartire l'appuntamento a Fondo Comini per DJ set, incontri, concerti, insomma, vedremo anche la situazione meteorologica per la giornata odierna. Giornata odierna che ci porta in mostra. Doppio appuntamento tra Bologna e Mamiano di Traversetolo. Iniziamo con un in mostra che potrebbe essere anche un last minute. È un'intersezione importante in occasione di un compleanno di 50 anni, 50 anni per la AEB industriale. Si occupa con grande attenzione e per tutto l'aspetto audio professionale, ha sede a Crespellano. Allora, quando ho letto i 50 anni di questi lavori e di questi percorsi per quanto riguarda la tecnica audio, è cambiato il mondo, cioè è cambiato veramente, ed essere sempre all'avanguardia su tutto ciò con grande professionalità, mi permetto di unirmi ai complimenti per l'ottimo lavoro alla AEB industriale e in occasione dei 50 anni di attività, come ho detto, quindi pensate ai percorsi di lavoro per questa azienda, e nell'intersezione con arte e musica ci sarà, con la collaborazione del settore Musei Civici di Bologna, Art Beat, i Musei Civici di Bologna in musica. È un progetto appunto diffuso per incontrare, vedere e ascoltare l'arte, che è promosso dal settore Musei Civici di Bologna AEB industriale. Varie sedi, ovviamente l'ingresso è gratuito, 16 e 17 settembre. I protagonisti sono, ne cito alcuni, Valentino Corvino, Guglielmo Pagnozzi, che già conosciamo, Pierone Odorici, che salutiamo, e nel Museo Civico del Risorgimento, per quanto riguarda una delle sedi, il Museo del Patrimonio Industriale, il Museo Civico Archeologico, adesso li sto citando, Museo della Musica, ovviamente. Comunque ognuno avrà la possibilità di esprimere quella che è un commento in note con composizioni originali a un'opera d'arte, a una sala, a un percorso museale. Quindi mettere insieme arte, musica, video installazione, come ho detto, con composizioni originali, è un'ottima occasione ed è onore al merito anche per i 50 anni di AEB industriale. Ne abbiamo parlato con per quanto riguarda il laboratorio delle idee con Camilla Consorti, che ha avuto anche la curatela per quanto riguarda la collaborazione, per quanto riguarda l'organizzazione di questo estesissimo progetto, e quindi sentiamo questi motivi di conversazione e andiamo in approfondimento per quanto riguarda Art Beats. Siamo insieme a Camilla Consorti dal laboratorio delle idee. Buongiorno Camilla. Buongiorno, buongiorno, grazie. Grazie a voi, anche perché è un progetto molto esteso e quanto mai importante. Si parla di musica, installazione, video, Art Beat, i Musei Civici di Bologna in musica. Di che si tratta, Camilla? Ah, è un progetto di cui ci siamo innamorati anche noi, che ci stiamo lavorando. È un progetto culturale promosso da questa azienda che si chiama Industriale, e sono al 50° anniversario e vogliono regalare alla città di Bologna un weekend aperto e gratuito ai musei, regalando qualche cosa di più, e cioè hanno affidato a 7 compositori, 7 musicisti, il compito di creare qualcosa di speciale per 7 musei del circuito dei civici di Bologna. E quindi sono delle composizioni originali che sono state create, e degli abbinamenti, un artista per ogni museo, in modo tale che in quel weekend la città possa fruire e delle installazioni e della visita gratuita. Quindi un'intersezione tra arte e composizione in musica. Leggo alcuni nomi: Piero Dorici, Beatrice Antolini, Guglielmo Pagnozzi. Quindi anche come espressione musicale quanto mai eterogenea, estesa. Assolutamente, abbiamo voluto creare degli abbinamenti assolutamente non convenzionali, e a volte anche evidentemente in contrasto con quelle che sono le collezioni contenute all'interno dei musei. Ci sarà anche Valentino Corvino al Museo Archeologico, ci saranno Gabriella Germandi e Fabrizio Puglisi al Museo del Risorgimento, ci sarà Marco Frattini al Patrimonio Industriale, Davide Fasulo e Marco Ferrari al Mambo, così da averli nominati un po'. La cosa bella è stata la risposta a questo invito, questa azienda che ha lavorato sempre sull'emozione per trasportare l'emozione dell'artista verso il pubblico, anche in questo caso, in occasione di questo importante anniversario, li ha invitati affinché si facessero ispirare da qualcosa in particolare all'interno del museo, una sala, un manufatto, un'opera specifica, e loro si sono divertiti da pazzi, devo essere sincera, e alcuni di loro hanno detto: aspettavamo questa occasione già da tempo. Quindi è stato bellissimo lavorare con gli artisti e con il comune, devo dire che è stata una collezione veramente di grande soddisfazione per tutti. Feelings in my insurance, yeah. In this world I'm sure you can feel the light of dust, yeah. Calls me again. So tell me I'm the only one. Beatrice Antolini, che è appunto presente in Artbeat per 16 e 17 settembre. Lei polistrumentista, cantautrice, compositrice, polistrumentista, come ho già detto, nell'intersezione con l'elettronica, pianoforte, clavicembolo, e si esibirà al Museo della Musica. Quando poi troveremo allo stesso modo altri artisti, musicisti, Piero Odorici al Museo Civico Medievale, Guglielmo Pagnozzi, clarinettista, saxofonista jazz, alle collezioni comunali d'arte, Valentino Corvino al Museo Civico Archeologico, Marco Frattini, il batterista, al Museo del Patrimonio Industriale. E quindi è un all-star game tra sedi espositive e tutto quello che può essere anche un talento in composizione musicale per dare colonna sonora. Sapete, da colonna sonora per le opere d'arte, per i percorsi in mostra, è già presente nella rubrica del giovedì. Qui ve n'è un aspetto concreto direttamente nella sala espositiva. Sono i 50 anni di lavoro di AEB Industriale nel settore dell'audio professionale, e di cambiamenti ce ne sono stati, quindi restare sempre ben all'avanguardia con tutto ciò, onore al merito. Ringrazio tantissimo Camilla Consorti per la disponibilità. Concludiamo la nostra conversazione per dare anche un po' di direttive logistiche per quanto riguarda l'organizzazione del weekend a proposito di Art Beats. Esatto, cioè normalmente si entra in un museo per guardarlo e noi abbiamo cercato di dargli una voce, un suono, e quindi sono delle installazioni sonore, sono musiche originali e inedite, e i visitatori potranno attraversare i musei accompagnati appunto da queste composizioni. Collaborazioni oltre che per i protagonisti, perché è un progetto molto esteso, Sì. Sì, è stato un bel lavoro, e devo dire comunque che anche i musicisti, il loro entusiasmo si vede anche da come hanno velocemente risposto, perché hanno avuto a dir tanto un paio di mesi per poter lavorare, considerato che era estate e che evidentemente avevano tutti i loro tour e le loro collaborazioni da portare avanti. È un lavoro molto molto articolato. Però insomma mi sta dando, ripeto, grandi soddisfazioni. Allora, basta presentarsi in qualsiasi di queste sette sedi espositive che abbiamo nominato per poter entrare gratuitamente in quelli che sono i normali orari di apertura dei sette musei, il sabato e la domenica. Io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione e ti auguro una buona giornata. Ti ringrazio io, venite ai musei, grazie, a presto. Civici di Bologna in Musica, un progetto diffuso per incontrare, vedere e ascoltare l'arte, promosso da Settore Musei Civici di Bologna e AEB Industriale, 16-17 settembre 2023, in varie sedi che abbiamo elencato insieme a Camilla. L'ingresso è gratuito. Tra pochissimo procediamo con la nostra rubrica dedicata all'arte. Ritroviamo sì Magnani Rocca, già la conosciamo, che è la sede che seguiamo con attenzione, a Mamiano di Traversetolo, un protagonista, Boccioni, quindi a breve, dopo la pubblicità, sui 103.1, in mostra.